meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Direi lasciamo da parte oggi gli aspetti stretti di cronaca elettorale, ne parliamo ogni giorno, vi ho dato i vari quadri in avvicinamento delle prossime primarie e soprattutto delle convention, e invece vorrei riflettere un pochino su quelli che sono gli umori degli americani. Se è cambiato davvero qualcosa nel tessuto politico del paese, se quello che sta succedendo in America altro non è che un riflesso di quello che sta già capitando in Europa. Abbiamo visto per esempio la Merkel indebolita con un partito della destra che è andato molto bene nelle elezioni in Germania. E dunque voglio fare questo approfondimento con John Micklethwaite, con cui abbiamo parlato la settimana scorsa. John è il direttore di Bloomberg, è stato il direttore dell'Economist per molti anni, poi ha lasciato l'Economist per occuparsi di tutto il news di Bloomberg, che significa televisione, significa agenzia, significa magazine, significa soprattutto, pensate, una squadra globale di quasi 3.000 giornalisti. E dunque John è con me qui ai microfoni di America 24. John, intanto buongiorno, benvenuto ai microfoni America 24. Good morning. Allora, io direi partiamo da quella che secondo me è la domanda di fondo. C'è secondo te una crisi della democrazia? Dove ci troviamo in questo momento, volendo dare uno sguardo ampio alla situazione sociopolitica americana? I think your own much beloved country shown... Beh, credo che il tuo amato paese abbia tracciato una linea che Trump sta seguendo. Mi riferisco ovviamente a Berlusconi, del quale ha lo stesso approccio, cioè sono un uomo d'affari, so come risolvere i problemi. E ha lo stesso atteggiamento sicuro nel dire le cose come stanno, anche in modo rude o non politicamente corretto. Ma questo è un fenomeno che sta prendendo piede anche in Europa, con Marine Le Pen in Francia, L'UKIP in Gran Bretagna, l'AfD in Germania. Si tratta di persone e partiti che attraggono e rispecchiano i sentimenti di tutti coloro, in Europa come in America, che si sentono abbandonati per colpa della globalizzazione, che guardano al passato come ad un periodo migliore. D'altronde è eloquente lo slogan di Trump: rendiamo l'America di nuovo grande. È un messaggio ovviamente entusiasmante, ma quando prometti troppo, le cose rischiano di andare male. Ecco, e cosa pensi delle varie proposte sulla politica economica? Il punto è che ci sono molti americani che si lamentano dell'America. Questo nonostante l'economia si trovi in un periodo positivo, soprattutto dal nostro punto di vista di europei. Ciò nonostante, la differenza è che ci sono molte persone che sono infelici qui. E ci sono due sentimenti dilaganti: l'insicurezza rispetto al proprio lavoro, la preoccupazione di ciò che può accadere, il fatto che la tecnologia possa prendere il posto delle persone. E poi, soprattutto in America, è molto diffusa l'idea che i figli non riusciranno a fare bene come i genitori. Questi sono due problemi molto importanti nell'immagine che l'America crea di se stessa. Questo perché, quando si ha un certo grado di sicurezza e stabilità, si pensa che i propri figli debbano essere in grado di fare meglio, mentre la classe media americana non ha attualmente questa percezione. Per cui la reazione è la rabbia, dare la colpa agli immigrati, agli accordi di libero scambio e a molte altre cose. Perciò prende piede il pensiero che qualcuno che sappia sistemare le cose, come Donald Trump, sia la persona adatta. Ecco, però sembra irrilevante in questo momento, come dire, il punto interrogativo su cosa possa o meno realizzare, su quello che davvero promette e su cosa può mantenere. Attualmente queste persone pensano che vengano da 20 anni in cui le cose non sono migliorate in modo sostanziale per loro, 20 anni in cui gli stipendi medi sono rimasti invariati e non importa quello che ha fatto nel frattempo il resto dell'economia. Per questi baluardi del capitalismo, l'America di oggi non è quella che conoscono loro. Ecco, John, tu hai avuto questa idea del 20%, cioè ci sono una serie di eventi possibili, plausibili, che però alla fine hanno soltanto il 20% di probabilità di realizzarsi. In realtà, chissà che uno di questi eventi non si realizzi. Ecco, perché non ci parli di questa tua idea del 20%, la regola del 20%? Sì, io la chiamo la regola del mondo del 20%. Ad esempio, se si volesse scommettere sull'elezione di Trump, le possibilità che questo accada sono del 20%. Per quanto riguarda le possibilità che ha Marine Le Pen di diventare presidente della Francia, sono un po' più alte, così come lo sono per la Brexit. In sostanza, il concetto che ho espresso è che viviamo in un mondo in cui queste cose hanno delle reali possibilità di realizzazione, e parlo di cose impensabili fino a poco tempo fa, o persone troppo lontane dall'idea mainstream del politico, come nel caso di Donald Trump, che ha effettivamente reali possibilità di diventare presidente degli Stati Uniti. In alcuni casi accade che le probabilità aumentino a dispetto delle possibilità iniziali, perché se Trump ottiene la nomination, la percentuale di vederlo presidente salirà al 40%, così come la stessa percentuale è attualmente ponderabile per quanto riguarda l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Beh, insomma, questo approfondimento che abbiamo fatto ci ha dato molte ombre, soprattutto alcune luci, ma soprattutto molte ombre. Ecco, ci sono delle ragioni in questo contesto, in questo momento politico attuale, per cui forse possiamo ancora essere ottimisti? Beh, credo che l'unica ragione per essere ottimisti è che, facendo una stima, è molto più probabile che sarà la Clinton il prossimo presidente e non Donald Trump, così come sarà più probabile che la Gran Bretagna rimanga nell'Unione Europea e che Marine Le Pen non diventi presidente della Francia. Il fatto che però queste cose possano accadere dovrebbe comunque essere di per sé un motivo di grande preoccupazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, John Micklethwaite con noi ai microfoni di America 24. John, song of the day, what do you choose, what inspires you from these events? Crazy by Patsy Cline. Crazy di Patsy Cline, follie. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.